Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi presento un libro che può essere una bellissima strenna, una strenna anche per noi, visto che probabilmente nelle settimane prossime molti di noi si dedicheranno anche a qualche viaggio. Questo è un libro strenna perché è molto bello, molto curato, è ricco di molte illustrazioni, ma altrettanto denso di contenuti, ed è un libro su una delle attività che da sempre più affascinano l'uomo, e cioè il viaggio. Ce ne parla un grande esperto di letteratura di viaggio, Attilio Brilli, che ha scritto Il grande racconto dei viaggi d'esplorazione, di conquista ed avventure, pubblicato dal Mulino, 562 pagine, 48 euro. Il viaggio, scrive Brilli, è sempre stato il vettore della civiltà, quale che ne sia poi stato l'obiettivo, appunto l'esplorazione piuttosto che la conquista o l'avventura, e quali che ne sia state le conseguenze, che magari sono state drammatiche o per chi effettuava il viaggio oppure per chi riceveva i protagonisti di quella spedizione. E questo libro si sviluppa appunto sulle mete ideali di questi viaggi. Perché la gente sfidava l'ignoto, per esempio, per andare in Asia o nell'India favolosa? Quale fu l'impatto della stampa e dunque delle carte nautiche nei mappamondi sull'attività del viaggio dell'umanità? Come si svolse il cambio di rotta verso Occidente e dunque la ricerca della scoperta delle Americhe, e anche la rotta verso il sud e dunque l'approfondimento della conoscenza dell'Africa? Di questi temi parliamo adesso con l'autore. Buonasera ad Attilio Brilli. Buonasera, buonasera. Attilio Brilli, lei nel suo libro comincia definendo il viaggio come il volto eternamente mutevole e contraddittorio della civiltà, e lo giudica anche un'eredità in divenire. Ecco, che cosa rappresenta dunque il viaggio nello sviluppo della civiltà occidentale? Ma il viaggio, diciamo, pensiamo subito, quasi come dire per istinto, alla scoperta dell'America o alla circunnavigazione dell'Africa. Il viaggio è il contatto, se vogliamo avere una visione ottimistica, di mondi diversi, talvolta di popolazioni diverse e qualche volta di civiltà diverse. Ma purtroppo subito dopo questi incontri si tramutano in scontri anche drammatici. Pensiamo appunto all'America centrale, a cos'è stata la colonizzazione che ha seguito immediatamente il viaggio di Colombo. Vede, già Colombo, quando ritorna, lui scrive ai reali di Spagna e al tesoriere della corona, quello che teneva la borsa, insomma, dice: finanziatemi un altro viaggio, che io vi porterò oro, spezie, tutto quello che volete, e soprattutto voi avrete mio tramite una popolazione docile al vostro servizio, come sarà il servizio del Signore, e così via. Qui è già iscritta, diciamo così, in qualche modo una sorta di demistificazione del viaggio come esplorazione, come atto così avventuroso e temerario. In fondo questo viaggio aveva immediatamente un risvolto economico e anche un istintivo, direi, processo di colonizzazione, di sopraffazione di una popolazione. Quando poi arriverà Cortés, questa popolazione saranno vere e proprie civiltà, anche con la loro sedimentazione, dai Maya agli Incas, agli Aztechi e così via. Infatti lei parla nel suo libro come del viaggio, o della memoria del viaggio, come un esempio della cattiva coscienza occidentale. Certo. C'è un episodio che mi ha sempre, direi, colpito e quasi commosso, per così dire, quando Antoine de Bougainville, questo grande navigatore settecentesco francese, arriva a Tahiti, viene accolto così in maniera, come dire, estremamente affabile e quasi con affetto dagli isolani. Le donne si concedono ai marinai, no? Le famose Veneri del Sud, dei mari del Sud. E però poi durante la cena lui vede un personaggio nell'ombra, immobile, un vecchio che non dà cenno di muoversi, lo prende per una statua per un momento, poi gli dicono: ma quello è il vecchio capo, il padre dell'attuale capo del villaggio. Allora lui gli si rivolge e il vecchio non risponde assolutamente. Allora Bougainville dice una cosa straordinaria, che le attribuisce al vecchio, ma è la sua coscienza che parla. Dice: quel vecchio aveva capito che con il nostro arrivo il paradiso di Tahiti era perduto per sempre. Ecco, lui l'attribuisce al vecchio, ma è Bougainville, esploratore e conquistatore di Tahiti, come di tanti altri luoghi, che parla e si rende conto, diciamo, proprio con la lucidità illuministica della sua epoca, della sua cultura, del risultato dei suoi viaggi. Lei ha accennato alla componente economica dei viaggi, è infatti uno dei primi personaggi che incontriamo, non solo per ragioni di cronologiche, è Marco Polo. Però lei sottolinea anche il fatto che l'esplorazione di Marco Polo e l'opera famosissima di Marco Polo, cioè Il Milione, sì, rappresenta una novità. Lei scrive che è il primo testo che preannuncia l'indagine empirica delle cose, lo spirito pragmatico e computistico portato in ogni occasione a descrivere numerare, che caratterizza il viaggio nell'età moderna, quindi cambia il modo di guardare il mondo già con Marco Polo. Certo, assolutamente. Si dimentica molto spesso che Marco Polo arriva nel Cathay insieme al padre e allo zio naturalmente e diventa una sorta di amministratore, di supervisore di Kublai Khan, che lo manda nelle varie province, e durante il viaggio lui dice una cosa sulla quale mi sembra non si è riflettuta abbastanza, ma una definizione veramente straordinaria. Dice: qui in questa città, qui in Saiba, una delle città della Cina, insomma, sono tutti dei grandi mercanti. Avrebbero potuto essere benissimo dei grandi guerrieri, ma sono qui mercanti, e mercanti di ogni cosa e naturali filosofi. Cos'era il filosofo naturale al tempo di Marco Polo? Era l'uomo di scienza, colui che indagava empiricamente la natura, sarà poi Bacon a dargli questo grande così risalto empirico, ma se il mercante è un mercante di tutto e un naturale filosofo, il mercante è anche colui che evidentemente non solo mercanteggia ma esplora, che studia e riferisce su quello che è il mondo che ha visto e con il quale, per il quale ha aperto delle nuove strade. Lei ci ricorda che il viaggio ha dato luogo anche a grandi colonie letterarie, a numerose colonie letterarie, intessuto di tabù, miti e paure, come titola in un suo capitolo. Fra gli stereotipi letterari ai quali dà vita il viaggio c'è per esempio quello dei cannibali. Sì, certo. Lì basterebbe ricordare, diciamo così, il cannibale anche qui, è un po' la cattiva coscienza dell'occidentale, insomma. Il cannibale è quella popolazione, si parte soprattutto dalle Americhe, poi il concetto verrà in realtà esteso anche ad altri luoghi, ma comunque il cannibale è colui che non si sottomette docilmente, come avrebbe voluto Colombo e tutti gli altri colonizzatori, ai nuovi venuti, insomma, agli occidentali, agli europei. E allora, essendo riottoso, essendo assolutamente alieno dal convertirsi al cristianesimo, l'indigeno è un cannibale. I più accorti, i più attenti si accorgono subito evidentemente che c'è qualcosa che non torna. Montaigne, forse è colui che con la sua lucidità proverbiale straordinaria dice: beh, a parte che di cannibale ne ho trovati più in Europa, lui si riferisce alle guerre di religione nei suoi momenti, al dramma degli ugonotti e così via, ecco, ne ho incontrati più in Europa che nel Nuovo Mondo. Ma voglio dire, guardate che il cannibale può essere cannibale nel senso cibarsi di carne umana, ma molto spesso è un rito, ha una funzione ben diversa da quella che noi gli attribuiamo, perché è la nostra lettura, perché noi siamo così, il cannibale è dentro di noi. Basterebbe pensare all'ironia straordinaria, eccezionale di Swift nella Modesta proposta, quando dice agli irlandesi: mangiatevi i bambini, mo voi morite di fame, siete degli inetti e dei vigliacchi, in realtà nei confronti dell'Inghilterra, e allora se avete fame mangiatevi i bambini. C'è dentro l'accusa nei confronti dell'Inghilterra, perché quei bambini realmente, cioè, i cannibali sono gli inglesi, insomma. E in queste colonne letterarie nascono anche i grandi miti letterari. Lei ne cita, ne ricorda due e li mette in collegamento: Gulliver e Robinson Crusoe, che definisce protagonisti della medesima parabola del naufragio dell'uomo moderno. In che senso? Nel senso che tutte e due, con angolazioni diametralmente opposte, non fanno altro che rappresentare metaforicamente quella che è la civiltà occidentale. Mi spiego meglio. Gulliver arriva nei vari luoghi, Lilliput e così via, e in realtà in quelle società, la società dei giganti o dei pigmei, non vede altro che la sua stessa Inghilterra. Solo che questo meccanismo è straniante, no? La estranea apparentemente, nessuno penserebbe che nei lillipuziani o nei giganti sono raffigurati gli inglesi o gli europei, insomma, in senso generale, ma in realtà è un meccanismo puramente, come dire, retorico per dire: ma gli inglesi sono quelli, quei vizi che noi riscontriamo in quelle popolazioni sono i nostri stessi vizi. Robinson usa un meccanismo totalmente diverso e la finalità è diversa. Lui dimostra che la civiltà occidentale è la migliore possibile, perché in fondo da solo, nella più assoluta e drammatica solitudine, ricostruisce i frammenti, diciamo così, una sorta di bricolage della cultura occidentale, la rimette su pezzo per pezzo fino a che incontra Venerdì e naturalmente l'indigeno, no? E naturalmente anche lì fuggito ai cannibali non a caso, e naturalmente lo fa il suo servitore. Allora, tutte e due non fanno altro che rappresentare la civiltà occidentale. L'uno denigrandola, mettendo in risalto tutti gli abomini, i difetti, i limiti, l'altro invece esaltandola al massimo grado. Grazie ad Attilio Brilli, autore del grande racconto dei viaggi di esplorazione, di conquista e d'avventura. Buona serata. Buonasera, buonasera. E vi propongo per chiudere questa sezione tre libri di viaggio della casa editrice Exorma. Il primo è di Tino Franza, che ci ripropone un'avventura di un grande scrittore di avventure, Robert Louis Stevenson, che nel 1878 percorse un itinerario in una landa allora quasi selvaggia nella Francia del Sud, le Cévennes, in groppa a un'asinella, Modestine. E questo viaggio è stato ripercorso dall'autore, c'è anche un percorso che apre a tutti la possibilità di seguire quel cammino. Il libro si intitola In cammino con Stevenson, viaggio nelle Cévennes, 174 pagine, 14,50 euro. Un altro grande scrittore di lingua inglese fu Rudyard Kipling, che era nato in India perché il padre vi insegnava arte. E di questo padre, al quale il figlio deve molto, e cioè di John Lockwood Kipling, viene pubblicato Il piccolo bestiario indiano, curato da Alessandra Contenti, 140 pagine, 13,50 euro. Kipling padre fu artista egli stesso, decoratore di interni, servì anche la regina Vittoria, e disegnatore. E qui troviamo una descrizione degli animali più diffusi in India, la scimmia, gli elefanti, i bovini e i rettili, con un capitolo conclusivo sui richiami degli animali. Animali che vengono descritti non solo nel loro aspetto fisico, riprodotto anche nelle illustrazioni, ma anche nel ruolo che si hanno avuto nell'arte e nella cultura popolare indiana. Per esempio, Kipling padre affronta il rapporto tra elefante e buddismo, parla del rispetto assoluto per le scimmie, racconta le leggende intorno ai serpenti. Infine, del collettivo Sparaiuri, vi segnalo Viaggiatori nel freddo, come sopravvivere all'inverno russo con la letteratura, 236 pagine, 15 euro. Il volume in realtà è firmato da Elisa Baglioni e Francesco Ruggero. E questo è un viaggio a Mosca sui mezzi pubblici che ci permette di conoscere la città attraverso la vita quotidiana che sui tram, i treni e la metropolitana si svolge. E così incontriamo la metropoli, ma soprattutto i protagonisti letterari della città, da Chekhov a Majakovskij. Ci interrompiamo per un attimo, ci sentiamo fra pochi istanti. Deborah, ti piacciono ancora le favole? Mi piacciono, sì, soprattutto adesso che è quasi Natale, ne stiamo scrivendo una insieme. Io, te, i nostri ascoltatori e Andrea Vitali. Eh sì, sino alla vigilia di Natale daremo vita a una grande favola collettiva. Ogni giorno, all'interno di Cuore e Denari, io darò un incipit nuovo e i nostri ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. Il migliore verrà poi letto in trasmissione e riceverà il nostro libro Secondo Canto di Natale. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo aver parlato di viaggi, parliamo di un'altra passione che certo non mancherà di occuparci nei prossimi giorni, nei quali affronteremo con una certa autoindulgenza le tentazioni della tavola. Vi segnalo allora, per cominciare, un romanzo gastronomico natalizio di un volto noto dell'informazione televisiva, Franco Di Mare, che si intitola Il teorema del babà. È pubblicato da Rizzoli, 224 pagine, 15 euro. Questo è un libro sulla passione sfrenata per la nuova cucina e per gli chef pluristellati che qui minacciano un bastione della tradizione culinaria del mezzogiorno del nostro paese, anzi di un paese vicino a Napoli. Ne nasce una rivalità che si scatena proprio alla vigilia del Natale, quando Procolo, che è il rappresentante della cucina tradizionale, prepara un memorabile pranzo del 25 dicembre, ligio naturalmente alle regole della tradizione, una tradizione che così Di Mare ci presenta. Per un menù rispettoso del dettato antico, consapevoli del momento che coniuga il sacro al profano e la gioia alla devozione, occorre cercare il corretto equilibrio tra il pescato e la gallina, il fritto e il lesso, le salse e il brodo, il dolce e il salato, una punta di aspro e un tocco di piccante, accostando ai dolci morbidi i biscotti secchi, le creme al marzapane, con un occhio al palato e l'altro al presepe, giacché è pur vero che il rito è pagano, ma l'occasione resta religiosa. Ed è dunque importante rammentare che seppure ci troviamo riuniti intorno a una tavola ricoperta d'ogni bene, siamo chiamati a celebrare l'avvento di nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo per mondarci dal peccato. Un romanzo, questo, inframmezzato anche da qualche ricetta della cucina meridionale, napoletana in particolare, a partire dal babà che dà il titolo al libro. Periodo dunque di grandi cene e tavolate, dove sarà il caso di non perdere l'aplomb e mantenere un certo stile, magari seguendo un manualetto di Galateo che risale all'incirca al 1300. Ne è autore un famosissimo cantore della Milano dei suoi tempi, che scrisse anche questo De Quinquaginta Curialitatibus ad Mensa, un autore bombesin della Riva, e questo libro, tradotto in 50 cortesie da tavola, è pubblicato a cura di Matteo Noia dalla Vita Felice, 88 pagine, 9 euro. Quest'opera si inserisce in un filone di scritti che contribuirono a fondare quella civiltà delle buone maniere descritta da Norbert Elias, il quale giudicò questo libro di Bombesin della Riva uno dei testi relativamente più personali e, tenuto conto del livello dei costumi in Italia, più progressisti. Oltre ad altre norme già contenute anche nei testi francesi già citati, contengono altre prescrizioni, come quelle di non tossire né starnutire a tavola e di non leccarsi le dita. Ma ci sono tanti altri consigli che forse vale la pena di ricordare, per esempio la quinta cortesia, quella di sedere a tavola come si conviene, cortese, educato, allegro, di buon umore, senza essere né preoccupato né di malumore, senza essere scomposto né con le gambe incrociate o storto appoggiato alla tavola. Oppure un altro, dallo spirito molto ambrosiano, cioè molto pratico: quando sei invitato, dice Bombesin della Riva, anche se in tavola c'è del vino buono, cerca di non ubriacarti. Chi si ubriaca stupidamente offende in tre maniere: nuoce al corpo, all'anima e spreca il vino. E poi un altro consiglio di Bombesin: non raccontare storie tristi, perché coloro che sono con te non mangino di mala voglia. Finché gli altri mangiano, non dire cose angoscianti, ma taci, oppure di parole di conforto. E un altro libro che ci riporta al Galateo è quello di un manuale pubblicato nel 1918 in Inghilterra e riproposto dal Mulino, L'arte delle buone maniere, 106 pagine, 11 euro, tradotto da Massimo Baldini, con la presentazione di Natalia Aspesi. La giornalista non manca di cogliere l'attualità di questo testo, scrivendo per esempio: la lettura di queste antiche buone maniere non è solo piacevole, ma tuttora molto istruttiva. Intanto si rivolge soprattutto agli uomini, come se fossero loro a dover impostare il galateo domestico e mondano, ma soprattutto sorprende perché è tuttora molto utile. Nel senso che sarebbe bello se si tornasse a tener conto che l'educazione abbellisce la vita. Purtroppo sappiamo che il villanzone, la maleducata, lo sguaiato, l'urlona sono i personaggi più ricercati dalla televisione, in quanto, come si dice, fanno audience. I lettori d'epoca di questo prezioso librettino inorridirebbero nell'immaginare delle belle signore che starnazzano Musone dicendo le massime stupidaggini e dei giovanotti costantemente in maglietta che insultano con la massima ignoranza. e troviamo un'ampia gamma di situazioni esemplari anche per farci capire la società della Belle Époque, e spunti che non sono poi molto diversi da quelli di Bonvesin. Per esempio, anche questo manuale affronta il tema della conversazione e raccomanda: badate agli argomenti che proponete, dovrebbero essere lievi, vivaci, tali da rendere l'intrattenimento più e non meno gradevole. Nel conversare, aggiunge, come nel mangiare e nel bere, siate moderati. Un buon ascoltatore viene apprezzato anche più di un buon parlatore. E come ve la caverete con gli amici e parenti vegetariani? Forse un mezzo per affrontare questa situazione è munirsi del libro di Lear Keith, che è una scrittrice americana, attivista per la difesa del pianeta e i diritti delle donne, che si intitola Il mito vegetariano, cibo, giustizia, sostenibilità, non bastano le buone intenzioni, pubblicato da Sonzogno, 378 pagine, 17,50 euro, tradotto e curato da un medico nutrizionista, Paolo Perucci. La scrittrice è stata vegana per 20 anni, per profonde ragioni ideologiche che ella non ha abbandonato. Scrive infatti di volere che la mia vita sia un grido di battaglia, una zona di guerra, una freccia puntata e scagliata verso il cuore della dominazione, la società patriarcale, l'imperialismo, l'industrializzazione, ogni sistema di potere sadico. Voglio che la mia vita, il mio corpo, sia un luogo nel quale la terra è rispettata, non divorata, dove non c'è posto per il sadismo e dove la violenza si ferma, e voglio che il mangiare sia un atto che dia forza anziché uccidere. Quindi l'orientamento ideologico della scrittrice è molto chiaro, però ella ha scoperto che i suoi ideali sono stati traditi dal vegetarianismo, che non è capace di dare risposta ai suoi desideri, desideri di compassione, di sostenibilità e di una distribuzione più equa delle risorse. La Keith vuole denunciare e combattere in primo luogo l'ignoranza. Un'ignoranza che, scrive, percorre in lungo e largo il mito vegetariano, coinvolge l'essenza dell'agricoltura e quella della vita stessa. Ella descrive le gravi conseguenze di una dieta estrema, quale quella che lei stesso aveva seguito, e scrive: una dieta vegetariana, in modo particolare una dieta vegana, non fornisce un'alimentazione sufficiente per il mantenimento in buone condizioni del corpo umano nel lungo periodo. Per parler chiaro, vi danneggerà, io lo so. Dopo 2 anni da quando ho intrapreso la dieta vegana, la mia salute è peggiorata e l'ha fatto in modo catastrofico. Insomma, il libro non si può certo considerare frutto di deformazioni ideologiche, ma non la manda a dire. Perciò Perucci lo definisce un libro di rara intensità e bellezza. E l'autrice studia le 3 categorie dei vegetariani: quelli per motivi etici, quelli per motivi politici e quelli per motivi nutrizionali, e propone alla fine le proprie ricette per salvare il mondo, posto che la delusione per il vegetarianesimo, come dicevo prima, non l'ha portata certo a difendere acriticamente il sistema della filiera della catena alimentare attuale. Anzi, scrive: non è una menzogna che gli animali sono esseri capaci di sentire attualmente torturati per fornirci il cibo, non è una menzogna che le nazioni ricche stiano prosciugando la vita del pianeta per rendere gli oceani letteralmente pieni di enormi quantità di spazzatura, non è una menzogna che la maggioranza delle persone si rifiuta di prendere consapevolezza dei sistemi di potere che stanno distruggendo noi e la terra. Ma la soluzione vegetariana, aggiunge, è un mito basato sull'ignoranza, un'ignoranza altrettanto inclusiva di ognuno di quei sistemi di potere. E a questo punto il confettino. Vi segnalo di Carmela Grande, che è un insegnante, Il bambino che giocava con l'acqua, l'infanzia di Gesù, narrata da Maria, edizioni Polistampo, 84 pagine, 6 euro, con i disegni di Francesco Grande. Entriamo nel gruppo dei libri di Natale, ve ne indicherò adesso qualcuno anche per i grandi, per gli adulti. E questo libro parla di una donna semplice ma profonda, che comprende e spiega il mistero del quale ella stessa è stata protagonista, e descrive con le sue parole i primi anni del bambino che nasce il 25 dicembre. Ultimi arrivi. Vi ho annunciato titoli prettamente natalizi. Innanzitutto un libro di Selma Lagerlöf, La leggenda di Gesù, tradotto da Maria Svensson Bianchi, pagine 190, 15,50 euro per Iperborea. L'autrice è una scrittrice svedese morta nel 1940, fu la prima donna che vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1909. E questa che ci offre una lettura inconsueta degli avvenimenti natalizi, ricavati dai Vangeli apocrifi, dalle leggende raccolte dall'autrice nel corso dei suoi viaggi in Italia in Oriente. Per esempio, nella notte di Natale vediamo la cronaca, ma da Roma, dove Augusto incontra la Sibilla, che ha visto la nascita di un nuovo dio che mostrerà all'imperatore. Oppure i Magi, che qui sono tre uomini, tanto saggi quanto poveri, la cui miseria li costringe a dormire alla diaccia, e proprio mentre riposano sotto il cielo uno di loro vedrà una stella, che interpretano come un segno che è nato un re possente, dal quale si recano per cercare e non per dare dei doni. E c'è anche un racconto che ci spiega l'origine della famiglia fiorentina dei pazzi. Poi vi segnalo Racconti di Natale, pubblicato da Elliot, tradotto da Serena Vischi, 124 pagine, 12,50 euro. Qui trovate 10 racconti di autori anche molto celebri, da Mark Twain ad Arthur Conan Doyle, a Oscar Wilde, e ce n'è uno in particolare, Il dono dei re magi di O. Henry, che è lo pseudonimo dello scrittore americano William Sidney Porter, vissuto tra il 1862 e il 1910, autore di oltre 400 racconti. Questo racconto parla di due coniugi giovanissimi e poverissimi, anzi fortemente impoveriti, con lei che vuole fare un bel regalo di Natale a lui, ma che si trova in tasca soltanto $1.87. I regali alla fine ci saranno per l'uno e per l'altra. E il finale del racconto mi pare possa rappresentare il miglior augurio libresco che possa fare a tutti voi, a Luca Cremonesi in redazione e a Valeria Bernardi regia.